Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee e soluzioni anticrisi. Ricerca e sviluppo, innovazione e formazione non sono solo parole, ma fattori critici e anche fattori di successo per le piccole e medie imprese. Il problema è quanto investono e quanto sono preparate per puntare su questi fattori il loro sviluppo immediato e anche quello futuro. Due imprenditori oggi raccontano la loro esperienza che è andata a segno grazie alla formazione, questa volta affidata ad una banca, e a una squadra, un manipolo di competenze che hanno saputo muoversi veloce e intercettare il mercato. Li abbiamo incontrati alla tavola rotonda Innovazione e Formazione, le leve per la crescita delle PMI, che si è svolta lo scorso 21 giugno a Milano, organizzata dal gruppo 24 ore presso la sua sede e da Intesa San Paolo. Hanno annunciato un accordo per formare giovani generazioni manager d'impresa delle PMI, come è avvenuto nelle storie che raccontiamo oggi. 11 sono i giocatori di una squadra maschile di calcio dotati di polpacci, 77 e la smorfia napoletana che simboleggia le gambe delle donne. Da questo gioco di numeri nasce 1177, il marchio di calze per uomo, donna e bambino della Ileana S.p.A., storica azienda di calzetteria nata 30 anni fa in un piccolo laboratorio di Castel Goffredo in provincia di Mantova, da un'idea di Ileana Pinelli, fondatrice e ancora oggi cuore della realtà con sede a Brescia. Ileana S.p.A. ha deciso di sfruttare la sua esperienza ma anche la formazione per lanciare questo brand. Come racconta il direttore generale Luca Bondioli, figlio della fondatrice e ideatore del brand 1177. Noi veniamo dal distretto della calza dell'intimo, dove c'erano fino a una decina di anni fa 480 imprese, partite tutte con un grande calzificio nei primi del Novecento. Vicino alla zona di Mantova, prettamente Castelgofredo, Brescia, c'è il più grande produttore di macchine delle calze al mondo, dove si sono sviluppati i più grandi tecnici. Fino a 15 anni fa i produttori di calze del distretto erano i primi al mondo, quindi l'impresa è stata creata da mia madre nell'82 come confezione di calze. Lei ha sempre avuto questo input della moda ed è diventata la prima donna del settore a fare prodotti moda, e quindi portando Ileana nel 2005-2006 a essere un caso importante come leader del prodotto moda nel settore calze intimo. Avete fatto un passaggio generazionale, ma in realtà la cosa che più ha caratterizzato le svolte sono state le innovazioni. Lei si ricorda il momento in cui è partita questa idea della calza nella scatola? L'idea era di riuscire a portare l'azienda da un'azienda di calze a un'azienda di design. Proprio l'idea è proprio quella. Quindi avevamo bisogno di un codice molto veloce che fosse replicabile in tutto il mondo. Quindi una cifra molto più semplice. Poi la cosa che ci piace di più era poter unire i due mondi, l'uomo, il mondo dell'uomo e il mondo della donna. Perché l'11 è un numero che evoca la squadra di calcio, il polpaccio dell'uomo, 77 invece è smorfia napoletana. Ci piaceva metterlo insieme e quindi creare un prodotto che andasse bene sia per uomo che per donna. Cioè, a noi ci piace vedere che il marito o la moglie si rubano le calze. Quindi sono calze, come si dice, unisex, che si possono trovare addirittura distribuite in macchinette distributrici. Sì, sono vending machine, diciamo, di nuova generazione, perché anche qui siamo un caso di studio nazionale, perché siamo stati i primi a personalizzare una vending automatizzata con sistemi di pagamento elettronici. Quindi le nostre macchine funzionano con carte di credito e bancomat. Uno deve anche pensare alle proprie forze, non avremmo avuto la potenzialità di aprirci 100 negozi. Però 100 vending machine forse riusciamo a metterle giù, quindi diventa un nostro piccolo flagship store, lo posizioniamo in posti magari che sembrano impensabili ma iniziano a fruttare. Quindi i primi test li abbiamo fatti su degli hotel del lago di Garda, poi siamo andati nei centri rafting, sempre per migliorare la macchina, perché all'inizio, non essendoci il progetto, devi comunque sperimentare. È stato fatto un grande test al Leone Shopping Center di Lonato, e da qui la scommessa è stata vinta. C'è stata anche una punta glamour per i prodotti precedenti, qual è stata? Calziliana ha sempre lavorato per grandi stilisti e abbiamo fatto le calze per i film burlesque. Ecco, il vostro modello di business, quale tipo di target avete? Questa è la domanda che ci eravamo fatti all'inizio e l'abbiamo sbagliata proprio completamente, perché pensavamo, no ma non sto scherzando, pensavamo di puntare su una categoria che andasse dai 25 ai 45 ai 50 anni. Oggi invece ci troviamo che il nostro prodotto viene utilizzato anche da ragazzini di 13-14 anni, quindi stiamo prendendo veramente tutta la fascia d'età. Per esempio, la cosa che ci ha colpito di più è che ci sono dei ragazzi che fanno wake skate e wakeboard, quindi un prodotto nell'acqua, utilizzano le nostre calze perché si asciugano velocemente, non danno. Quindi il target è molto trasversale. Io oggi, anche qui, pensavamo che il prodotto all'inizio fosse un prodotto 80% uomo, 20% donna, invece è bilanciatissimo, è 54-46. Quindi siamo partiti, l'idea iniziale di fare circa 25-30.000 lattine, a oggi ne abbiamo fatte più di 350.000. Altra cosa importante è la formazione, cioè non siete nati con determinate professionalità e avete anche usufruito dell'aiuto da parte di qualcuno. Chi? Abbiamo fatto due step importanti. Il primo è stato andare noi a scuola, quindi l'aiuto anche delle competenze, il management in questo caso. Noi, quando prima al convegno ho detto, noi avevamo bisogno di un partner, non solo di un mero fornitore di finanza, quindi in questo caso la banca ci ha aiutato a crescere, a individuare gli operatori che erano corretti per il nostro progetto. Banca Intesa l'abbiamo trovata come un partner, non solo di fornitore di denaro, ma un partner che ci accompagni lungo un percorso. Oggi siamo all'inizio di quel percorso, perché comunque stiamo vedendo insieme anche le necessità che su Ileana sono state capite, anche delle necessità che ci sono per la PMI, e quindi c'è un colloquio diretto sempre sulla formazione del personale e la formazione dell'imprenditore. Altra storia. Tutto ebbe inizio nel 1958, quando Francesco Casillo rilevò i molini e pastifici coratini, li rinominò Molino Casillo e li affidò al figlio Vincenzo. Poi arrivò la seconda generazione imprenditoriale. Oggi il gruppo Casillo è leader mondiale nell'acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano duro. Ma questa piccola media impresa non si è fermata qui e grazie alla formazione e l'innovazione si è spinta in nuovi mercati e ha vinto l'anno scorso il premio per la migliore innovazione italiana dell'anno grazie allo spin-off New Gluten World, costituito dall'Università di Foggia e dal gruppo Casillo per tradurre le intuizioni scientifiche in invenzioni industriali, come racconta il presidente amministratore delegato Pasquale Casillo. L'Italia ha una delle leadership riconosciute proprio nella dieta mediterranea e nella pasta. La cosa più importante è capire le origini, allora, le origini della vostra famiglia, della vostra storia. Il fondatore è stato Vincenzo, ecco, la prima generazione. Si ricorda qualche, diciamo, episodio tramandato dei primi momenti, degli albori dell'impresa? Ma la molitura e il commercio delle granaglie sono addirittura una tradizione di famiglia che è precedente alla generazione di mio padre. La figura di Vincenzo, chi era Vincenzo, il fondatore, com'era? Un innovatore, perché attraversare 70 anni di storia, sempre in un settore, non può che essere prerogativa di persone dotate di visione, che sappiano entrare ed essere sempre in sintonia con il contesto. La nostra è la tradizione di una famiglia industriale che poi è cresciuta sia in termini dimensionali, sia in termini di presenza sui territori, e che dalla propria origine pugliese oggi è presente in 9 regioni d'Italia con 22 impianti e con una diversificazione che riguarda l'intera filiera della lavorazione dei cereali. Allora, la cosa più importante invece è sapere innovare, come diceva lei, e voi avete fatto da pochissimo un salto gluten friendly, scoperta che consiste nel sottoporre il grano ad un trattamento essenzialmente termico che determina una modifica del glutine, per effetto della quale gli sfarinati poi sono somministrabili ai celiaci. Questa è una innovazione, una scoperta veramente importante, perché consentirà di sostanzialmente risolvere i problemi alimentari dei celiaci, in quanto potranno tornare ad avere una alimentazione del tutto comparabile a quella convenzionale, con sia risparmi economici ma soprattutto nel recupero di una vita assolutamente normale. La formazione nella vostra azienda, che leva è? La formazione è una leva assolutamente strategica alla quale stiamo dedicando grandissimo impegno. In questi giorni siamo impegnati nel varo del progetto Casillo Academy, che consiste in un programma di formazione post laurea, post diploma, per la formazione di figure in ambito produzione. Stiamo formando dei direttori di stabilimento, direttori di produzione